Mix 24 di Giovanni Minoli. Hillary Clinton, Donald Trump, avanti tutta nel Super Tuesday elettorale per la candidatura alla presidenza degli Stati Uniti. Difficile che alle presidenziali americane del prossimo novembre si confronti qualcuno di diverso da Hillary Clinton per i democratici e Donald Trump per i repubblicani. Non c'è stato un giorno in cui Donald Trump non abbia scandalizzato e gettato benzina sul fuoco. I don't know what I said. Prende in giro un giornalista diversamente abile, caccia da un comizio una ragazza di colore, sostiene che le donne portino il burka perché non vogliono truccarsi. Battute, barzellette, gesti sessisti. Principale bersaglio, Hillary Clinton, la sua avversaria democratica. Women don't like her, men don't like her. Se non riesce a soddisfare suo marito, come può soddisfare gli Stati Uniti? Trump ha però il primato di essere riuscito a innervosire perfino il Papa. Non è cristiano. Barack Obama scende nell'arena della campagna elettorale e lo fa attaccando Donald Trump. I continue to believe Mr. Trump will not be president. Continuo a credere che il signor Trump non diventerà presidente. Immediata la replica del magnate repubblicano. Quest'uomo ha fatto un lavoro così scadente, ci ha riportati indietro. Maurizio Molinari, direttore della Stampa, buongiorno. Ecco, partiamo di qui. La presidenza di Obama ha una valutazione, sta finendo e possiamo definirla in qualche modo una presidenza doppia, dottor Jack e Mr. Hyde, valutando da una parte l'economia e dall'altra la politica estera? Sì, buongiorno. Obama è stato, ha avuto successo sull'economia e ha sommato molti insuccessi sulla politica estera. È stata una presidenza più americana che non internazionale. Ecco, ma qual è la migliore eredità che lascia Obama? Sicuramente la ripresa dell'economia americana. Avesse nel 2008 un paese in affanno, la crisi finanziaria minacciava di travolgere, e lui è riuscito a risollevare questo grande motore della prosperità di tutti noi, restituendo denaro alla classe media, ecco, mettendo nelle tasche della gente più dollari. Più dollari. Con l'America però sembra una potenza in ritirata dal mondo, economia forte ma in ritirata dal mondo, è così? È così grazie a scelte del presidente che ha teorizzato la leadership dai posti di dietro, cioè non guidare ma seguire, che è un po' un'anomalia nella storia americana. Appunto, e Obama ha inaugurato diciamo un po' la sua linea di politica estera con il discorso del Cairo, il famoso discorso del Cairo sulle primavere arabe, che però sono state un vero fallimento, un suo fallimento. Soprattutto hanno visto arrivare il califfo di Abu Bakr al-Baghdadi, il sanguinario Stato Islamico, che lui non aveva neanche previsto, forse il suo maggiore fallimento. Ecco, ma in che cosa la Clinton è diversa da Obama? Sono tutti e due democratici, però non sono uguali, Molinari. La Clinton è quasi repubblicana, il suo centrismo sulle questioni di valore come l'aborto e i diritti civili la rende molto simile ai conservatori, e poi è più spietata di Barack. Ecco, è più spietata, cioè? Nel senso che nei confronti dei nemici ha un approccio alla Henry Kissinger, lei non prende prigionieri. Ecco Molinari, il dibattito americano adesso però è dominato dalla figura di Donald Trump, che interpreta lo spirito del tempo oppure è un fenomeno che si spegnerà, cioè c'ha radici profonde? Ha radici molto profonde nella pancia dell'America. Da oltre 10 anni le percentuali di apprezzamento per il Congresso sono sotto il 10%, c'è una forte ondata anti-sistema, anti-establishment, e lui la esprime. E quindi in questo senso è americano-americano? Americano lì dove i cittadini pensano che l'America è più importante e migliore del loro governo. Ecco, leggendo e guardando insomma le azioni di Bernie Sanders, ti sembra che è più isolazionista lui o Trump? È più isolazionista Sanders. Ancora più isolazionista? Sì, la dinamica è una dinamica che entra nelle viscere dell'America. Trump dice il mondo va nella direzione errata, dobbiamo ricostruire l'America. Sanders dice dobbiamo pensare ai nostri diritti. È l'America che pensa a se stessa in questa fase e vuole ricostruirsi, ma con ricette opposte. Che quindi è davvero il momento in cui, il momento storico in cui l'America si ritira, quindi. Si ritira per ricostruirsi, poi ci sarà una fase di intervento nel mondo, si tornerà a una nuova stagione di Wilson, ma non siamo a quello. Non siamo a questo, ma Trump è un populista nel senso europeo, anche da noi i populismi sono in crescita esponenziale. Trump è un antisistema, esprime in maniera estrema l'ondata anti-establishment che c'è anche in Europa, ma la esprime nel nome dei valori americani. L'altro giorno nell'intervista a Bob Woodward sul Washington Post, quando gli è stato chiesto di descriversi, lui ha detto: io sono the lone ranger, il ranger solitario, cioè l'uomo che da solo è in grado di dominare la prateria. Di dominare la prateria. Ecco, ma somiglia al primo Berlusconi, Trump? Nell'essere contro tutti e tutto, nell'essere rituale e riguardoso, assolutamente sì. Assolutamente sì. Ecco, ma se dovesse, come è probabile, conquistare la nomination repubblicana, cosa probabile, no? Che dice? Al momento siamo in attesa dell'esito del Wisconsin, però sicuramente da outsider è diventato frontrunner, cioè il favorito. Ecco, come vede un dibattito televisivo che ci sarà se lui fosse il candidato alla nomination fra lui e Hillary Clinton? In grado di spazzare via la nostra immaginazione. Rovescerà su Hillary, tutte le accuse più becere e indicibili che l'America conosce e che nessuno ha osato mai dirle apertamente. Perché c'è un risentimento anti-Clinton in America? Perché lui ha capito che Hillary rappresenta quello che oggi l'America non vuole, cioè l'establishment, e tenterà di esaltare questa sua caratteristica antisistema. Se però, ripetiamo, riuscirà ad arrivare a questo. Naturalmente, punto. Certo, quindi sarà uno spettacolo di sangue proprio. Sì, e credo che il primo sangue lo vedremo a Cleveland nella convention repubblicana, perché il partito repubblicano che si oppone a Trump farà di tutto per fermarlo, e il partito repubblicano rischia innanzitutto la sua unità e identità. Ma tu a quanto lo dai Trump che vince la nomination? Credo che a questo punto fermarlo sarà molto difficile, ma il Partito Repubblicano tenterà. Credo che noi potremmo assistere alla nascita di due partiti repubblicani. E la possibilità di vincere di Trump se avesse la nomination contro la Clinton? Per Hillary sarebbe la sfida più dura e più difficile contro Trump. Trump dice che la NATO costa troppo, chiede un contributo finanziario più forte agli alleati. Cioè, insomma, questo strumento militare che è stato concepito dopo la guerra rischia di finire in crisi, insomma. Credo che in questo Trump abbia ragione quando dice che la NATO, costruita contro l'Unione Sovietica, adesso deve battere il terrorismo, cosa che non fa. Dice ad alta voce quello che molti militari pensano. Certo, la Clinton è stato interventista e lei, che ha premuto molto per la guerra in Libia, ci sono le prove oramai nelle sue mail, lo sarà ancora? Ma è stato un intervento che non ha avuto successo, perché in un'ottica americana ciò che conta è vincere. Se l'intervento non porta alla vittoria, è una sconfitta. Questo è quello che dice Trump quando lui dice: io unificherò l'America con la mia ricetta, che è la vittoria. Ecco, Obama però ha perso in Siria e Putin l'ha vinta, e questo ribalta molto le posizioni geopolitiche, sei d'accordo? Perché Putin è un grande giocatore di scacchi, in questo momento in Medio Oriente è impossibile avere vittorie definitive e lui sa giocare le partite dell'Oriente, mentre Obama ha giocato con la tattica del Novecento e non ha vinto. Ma che conseguenze ci possono avere sullo scacchiere geopolitico da questa vittoria di Putin in Medio Oriente? Una Russia più influente, più egemonica, più presente e paradossalmente artefice di un riavvicinamento fra i grandi nemici del Medio Oriente, l'Arabia Saudita, l'Iran e anche Israele. Ecco, ma con l'Italia, Obama ha avuto dei rapporti amichevoli, sì, ma non caldi come sono stati quelli di Bush. Cosa si deve aspettare l'Italia in futuro dagli Stati Uniti? Cioè, cambierà la natura del rapporto fra l'Italia e gli Stati Uniti comunque sia? No, sarà sempre più intensa. Il motivo per il quale gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Italia è strategico. Una volta eravamo al fronte della guerra fredda, adesso siamo sul fronte della jihad. Siamo hanno su... bisogno, hanno bisogno di noi. Ecco, più di prima. Siamo sul fronte della jihad, però nel caso della Russia siamo stati noi a pagare il prezzo delle sanzioni, ci è costata 3,6 miliardi in pochi anni. Cioè, seguire Washington è stato anche un qualche forma di suicidio economico. Io credo che ciò che serve all'Italia in questo momento è una nuova dottrina per la sicurezza nazionale, ovvero definire i propri interessi nazionali in una fase di decomposizione del Mediterraneo. E quindi rispetto alla guerra della Libia può darsi che il nostro interesse non sia quello di seguire l'interesse americano? Assolutamente no, dobbiamo però riuscire a definire quello nostro di interesse. Certo. Grazie Molinari, 800 24 00 24, numero verde 349-238-6666, l'SMS. Insomma, che cosa ha significato la presidenza di Obama? Ce l'ha detto con chiarezza Molinari. È un momento chiave per le sorti del mondo. Questa terza guerra mondiale a pezzi, come l'ha chiamata Papa Francesco, è sempre più attuale. Adesso emerge anche la guerra, l'infoguerra, insomma. Ecco Mario, che ne pensi? Gli Stati Uniti sono ancora il nostro alleato migliore oppure no? Questa è la domanda delle 100 pistole, certo. Perché se lo sapessimo saremmo molto ricchi. Però intanto Maurizio Molinari ha descritto perfettamente, secondo me, il quadro, no? E anche in fondo un po' dove sta andando, sta dicendo. È chiaro che noi dobbiamo cambiare un po' le nostre strategie, per almeno una ragione. Il mondo è insicuro e non è perché sia multipolare, al contrario, è perché si sta appunto... Stanno riuscendo le nazioni, esatto, stanno riuscendo le nazioni. 8 anni di presidenza Obama, secondo me, hanno un bilancio in politica estera negativo. Siamo al disastro umanitario, abbiamo detto, questo parliamoci chiaro. E insomma, non lo so, bisogna vedere che cosa in realtà succede dopo novembre, cioè con l'elezione, chi va alla presidenza degli Stati Uniti. Avete visto che cosa è successo con le rivoluzioni indotte nel Mediterraneo, non solo, ma anche in Europa. Pensa all'Ucraina. L'Ucraina è uno stato fallito, certo. E cioè, era questo il disegno, portarlo in Europa non era una grande cosa. Devo dire poi che c'è anche l'Europa che affida alla Turchia le chiavi dei propri confini. E stiamo vedendo con quali risultati. Io mi vergogno, francamente. Cioè, ecco. Voglio dire, uomini, donne e bambini affidati alle mani dei turchi, ecco, con quel record sui diritti umani. Ma io sono... Ecco, Obama comunque è un presidente che ha cambiato l'ottica, no? Guarda il Pacifico e non guarda più l'Atlantico, sbaglio? Sì, è uscito un pezzo molto interessante sul Financial Times 3 giorni fa di commento. E diceva una cosa, che Obama è il primo Pacific President e contemporaneamente non Atlantic President. Appunto. Cioè c'è proprio un distacco completo rispetto a una lunga tradizione storica. E questo naturalmente ha delle conseguenze notevoli sul piano geopolitico. Secondo me le elezioni americane sono guardate come... Sono veramente una svolta. Ecco, sì. Tu, Pietrangelo, hai un punto di vista che invece è molto mediterraneo-centrico in qualche modo. Che cosa vedi dalla tua postazione col tuo occhio? Beh, innanzitutto appunto il Mediterraneo è il centro, ma è proprio l'occhio del conflitto. È il luogo dove le potenze lontane 10.000 chilometri hanno deciso e stabilito la crisi, che è stata determinata non tanto da bombe mirate alla distruzione degli edifici, delle città, delle vite umane, ma bombe migratorie, perché quelle benedette e maledette rivoluzioni arabe sono state alla base di quello che poi ha portato alla catastrofe del continente europeo, non solo quello del Mediterraneo, certo. Pensiamo a quello che succede nelle aree baltiche. Sono quelle crisi che sono figlie, sì, dell'amministrazione Obama, ma ancor di più generate dalla disastrosa politica egemonica della stagione Bush, che ha visto non solo l'orchestrare le catastrofe nell'area del Mediterraneo, ma anche, e ricordavate prima tu e Mario, il caso dell'Ucraina, i casi delle cosiddette rivoluzioni arancione, che stanno a fondamento di quelle che poi sono state messe alla prova nel Mediterraneo. Ecco, però la dipendenza americana è stata creata anche, se non prima di tutto, dalle nazioni islamiche. È l'Iran che ha avuto bisogno degli Stati Uniti per riaffermare il suo ruolo, che adesso sta esplodendo, di potenza regionale. e questo con l'accordo nucleare. Ecco, è così, cioè Obama in qualche modo ha fatto e riemerge sono di entrare due, in gioco. Sono due vicende l'Iran. Diverse. Le nazioni islamiche che hanno fatto sempre riferimento agli Stati Uniti o comunque alle potenze occidentali sono quelle che da sempre hanno avuto un atteggiamento di totale subordinazione alle logiche americane. Tu, quando hai intervistato Gheddafi, gli hai fatto uscire fuori un dato che era inequivocabile, e cioè quando Gheddafi diceva siamo tutti qui, siamo nella Lega Araba, siamo tutti riuniti e non siamo in grado di difendere i palestinesi. Certo. Il caso iraniano invece è diverso, perché certo, bisogna dire che l'Iran sono 90 milioni di persone, la maggior parte giovani, non sono certamente degli squinternati, è gente che conosce le tecnologie, conosce la contemporaneità. È un paese moderno e non ha certamente un rapporto di sudditanza con gli Stati Uniti d'America. No, anzi, io dicevo Obama l'ha fatti uscire con l'accordo, però. Beh, diciamo gli ha dato, che li ha rimessi in gioco. Sai perché? C'è un fatto, sono gli unici che stanno combattendo sul terreno i terroristi dell'ISIS. Questo è vero. Devono considerare anche il fatto che se Palmira adesso è libera grazie anche, a questi cattivissimi. Certo. Ecco, intanto abbiamo con noi il generale Vincenzo Camporini, buongiorno, vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali. Ecco, buongiorno generale. Ecco, Trump, l'abbiamo sentito, dice che gli Stati Uniti pagano troppi contributi alla NATO e che la permanenza dell'America è legata all'aumento dei contributi. Cioè, insomma, ho più soldi dall'Europa oppure la NATO così è a rischio e non serve tra l'altro tanto. Lei è d'accordo? Ma è il concetto di burden sharing che aleggia sulla NATO dalla sua fondazione praticamente e che in questo periodo sta diventando sempre più concreto e reale. Il contributo finanziario dei paesi europei alla difesa comune è certamente inferiore a quanto ottengono e il loro contributo operativo è largamente appunto inferiore. E quindi da questo punto di vista, generale Camporini, le elezioni americane sono molto importanti per vedere che direzione prenderà comunque la NATO. Certamente sì. Cioè sul piano strategico una disattenzione nei confronti dell'Europa crescente, come peraltro è il trend che si è manifestato negli ultimi anni. Ecco, lei però cosa pensa della decisione americana di appoggiare la campagna libica, però appoggiarla nel senso armiamoci e partite, perché mi sembra che sia questa la linea americana? La linea americana è i vostri problemi li dovete risolvere da soli, noi possiamo darvi una mano e certamente difenderemo i nostri interessi facendo fuori quelli che ci danno fastidio. Ecco, cioè vi diamo una mano però nel senso che vi spingiamo a fare, non è che vi diamo una mano e fate un po' come volete, non è questa la linea mi pare. No, il problema è che ci sono minacce per interessi americani, queste minacce vengono contratte con questi omicidi selettivi tramite i droni e per il resto è chiaro che l'atmosfera dovete curarla voi, è chiaro che lo fate anche perché fa comodo a noi. Ecco, ma per curarla noi e far comodo anche a noi, oltre che a loro, bisogna avere una forza militare autonoma. Ecco, la nostra dipendenza militare degli Stati Uniti in realtà è totale. Quanto ci vorrà di tempo per sganciarsi o quantomeno per raggiungere una qualche forma di autonomia che ci consenta di definire i contorni della nostra politica? Se il nucleo duro dell'Unione Europea si potesse formare, e io credo che ci siano tutti gli ingredienti per farlo, basterebbe poco tempo, basterebbe veramente il tempo di una presidenza per far sì che l'Europa diventi un attore sul campo globale che abbia la capacità per fare una politica e non per subirla. Ecco, generale Camporini, Putin in Siria però ha dimostrato che Obama si sbagliava sull'efficacia delle azioni militari, perché Putin ha dimostrato che possono essere brevi e letali. Insomma, e questa è la prova, è stata la riconquista di Palmira. Obama ha avuto... quali orientamenti nuovi emergono dal Pentagono oggi, dopo questa presa d'atto di un fatto, perché così è andata? È andata così perché Putin ha usato la forza militare al servizio di una chiara visione politica, aveva degli obiettivi da perseguire e li ha perseguiti con grande determinazione e anche senza molti scrupoli. Purtroppo impiegare la forza militare senza il disegno politico, così come stava facendo e come purtroppo sta ancora facendo la presidenza americana, non porta a nulla. Ecco, però la politica estera si fa con gli eserciti, e Obama e Putin lo ha dimostrato. Senza, è difficile essere una grande potenza, e i droni sono degli elementi collaterali, importanti, ma collaterali, non sono per ora lo strumento col quale si possa vincere la guerra. Ha dimostrato che la tecnologia non fa vincere le guerre. Quindi senza l'esercito è difficile essere una grande potenza autonoma. Assolutamente sì, ma l'uso di questi mezzi tecnologici è un uso che gli Stati Uniti stanno facendo da qualche tempo in modo esclusivamente punitivo, cioè loro non vogliono più vincere la campagna, non gli interessa più, perlomeno nello scacchiere medio orientale, certo, e mediterraneo. A loro interessa esclusivamente far passare il messaggio: Se c'è una lesione dei nostri interessi, sappiate che chi è colpevole verrà colpito. Cioè le singole persone vengono colpite le singole persone. Ecco, generale Camporini, Trump, l'abbiamo detto in tutta la trasmissione, è un isolazionista, Sanders è isolazionista, Hillary invece è inseguita dai fantasmi di Bengasi, l'Europa è sotto costante minaccia terroristica. Insomma, in qualche modo... chi ha vinto sul terreno con gli eserciti, poi alla fine è il combinato disposto dell'Iran e della Russia. Quindi diciamo addio all'America, ci alleiamo con Putin nella visione strategica dell'Europa? Diciamo addio all'America, perlomeno un arrivederci, non si sa cosa potrà succedere fra 4 o 10 anni. Dobbiamo sicuramente avere una nostra identità europea, limitata certamente non a 28 ma a 3, 4, 5, e dopodiché si potrà negoziare con Putin una alleanza o una convergenza di interessi che sicuramente sarà favorevole sia per noi che per la Russia. Ecco, ma generale, come devono, in questo quadro strategico, in un mondo che cambia velocissimamente, come devono essere riorganizzate le nostre forze armate alla luce di questo futuro che si preannuncia con le elezioni americane e con le conseguenze che stiamo dicendo? Le forze armate dei paesi europei si devono integrare, lo potranno fare soltanto quando ci sarà una vera politica estera comune europea, che sarà certamente appunto limitata a qualche paese, i quali dovranno fare il salto verso una unione di tipo federale. Ma quindi diciamo che è un processo che è molto in fieri, non se ne vedono neanche ancora l'alba, diciamo, di questo disegno, oppure sarà la storia a far accelerare questi processi? Secondo me la storia farà accelerare questi processi. Non dimentichiamoci che ci sono esempi storici adeguati. Guardiamo alla unificazione dell'Italia del 1800, degli anni della metà dell'Ottocento. C'erano molte speranze, c'erano molti delusi, e poi qualcosa è successo che ha messo insieme questo paese. Ecco, gli americani comunque... questa volta l'abbiamo detto in tutti i modi, in Libia non ci saranno, ma ci spingono a fare la guerra. Ma a noi dobbiamo fare la guerra in Libia, secondo lei? Noi in Libia dobbiamo esclusivamente avere un rapporto positivo con chi detiene il potere in Libia. Esatto. Ora, se questo governo Sarraj riuscirà a assumere le leve del potere, in particolare la banca centrale, la NOC, potrà essere l'interlocutore che cerchiamo. Non facile. Altrimenti dobbiamo con molto pragmatismo verificare chi sul terreno ha la capacità di controllare il territorio e avere un rapporto con costoro. Grazie generale Camporini. Ecco, Pietrangelo, viene fuori, mi sembra, un quadro veramente in movimento di grandissima instabilità da tutte le parti. Secondo te siamo di fronte a uno shock simile a quello della caduta del muro di Berlino, di fronte al quale poi alla fine nessuno sapeva bene cosa fare, è nata una globalizzazione immediata e forse, come dice qualcuno, anche un po' troppo veloce? È anche peggio, secondo me. Lo ricordava prima Molinari, adesso c'è una differenza: dobbiamo fare i conti col terrorismo nella sua versione globale, di guerra civile globale. E forse l'unico esempio che ci aiuta a capire è quello dell'apprendista stregone. La signora Clinton sa bene che cosa combinò quando nella guerra in Afghanistan loro foraggiarono e crearono e cercarono nei mujahideen di trasformare quelli che poi sono diventati i veri genitori di questa situazione. L'apprendista stregone ha evocato i demoni e adesso è difficile che sappia regolarsi con questi stessi demoni. Naturalmente tantissimi sms che vogliono intervenire su questo tema, sull'alleanza con Putin, sul ruolo di Obama. Qualcuno dice il suo merito è che è un nero, molte critiche. Isabella da Milano al telefono. Isabella, buongiorno. Buongiorno signor Minoli, a lei e ai suoi colleghi giornalisti. Dica. Senta signor Minoli, io volevo fare questo intervento, ma sono anni che ci penso. Dunque, io penso che tutto questo che sta succedendo, che siamo tutti sgomenti, attoniti, soprattutto qui in Italia, che sì, è una nazione pacifista, dica, tutto quello che sta succedendo per me è il frutto della politica del padre di Bush Junior e Bush Junior, perché loro hanno generato questo mostro e adesso questo mostro si sta andando contro. È un po' come diceva Pietrangelo, buttafuoco. Sì, grazie signora. Grazie. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mario, ancora tu concordi? No. Sull'analisi storica no, perché in realtà le cose cominciano anche da un po' prima, se vogliamo. E ti sorprenderò neppure sul pessimismo generale. È vero, è una situazione catastrofica, però sto leggendo un libro di George Steiner, fantastico. Posso leggerti un passo, certo, che secondo me è veramente bello. Ci abbiamo anche una musica. Parigi, 1420. Nelle ultime fasi della guerra dei Trent'anni, quando i lupi non trovavano che lupi per sfamarsi nelle città vuote, quanti prevedevano l'imminente guizzo delle energie culturali e l'affermarsi delle Americhe come forza di compensazione? Beh, certo, una grande lezione che viene dalla storia, ma anche oggi non è che siamo stati pessimisti, è la descrizione della complessità della situazione, dalla quale esplodendo uscirà naturalmente una soluzione, certo, sì, sì. Perché la storia ci ha insegnato questo: non c'è futuro senza però capacità di leggere la storia, quella storia che qui a Mix 24 coltiviamo e amiamo. Non dobbiamo mai smettere di declinare i verbi al futuro, ma capire anche le radici. 824 del passato. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Pubblicità. Mix 24. Mario, ci chiedono molti ascoltatori il titolo del libro che hai citato, sì, se puoi ridirlo. Certo, allora è Il castello di Barbablù di George Steiner, edito da Garzanti, un libro eccezionale, al quale consiglio di accoppiare un altro libro, sempre di Steiner, che è Una certa idea d'Europa, altrettanto bello. Sono due tomi piccoli che aiutano a capire la contemporaneità. Pietrangelo, che cosa ci fai sentire oggi? Eccola. Oggi una novità, un'ascoltatrice che è Demetra in persona, pendolare delle ferrovie Apulo-Lucane, ci ha inviato una mail chiedendo questa canzone, così scrivendo, dice: e se una frana ci trascinasse via portandosi il cielo riflesso in un finestrino in movimento, se tutte le persone nei vagoni diventassero stormi, naufraghi nei sogni, e se tutto ciò che vorremmo essere si rivelasse come un rigagnolo perso nel mare di un sottovia? Parole di Demetra. Che meraviglia. C'è un po' la Valentina. Valentina. Cambia spesso. Perché non sa Mario, ma lo sa, forse lo deve ricordare negli anni del suo liceo, le divinità hanno sempre tanti nomi. È vero, sono multiformi. E tu, la bolla Mario di oggi? E vanno in maggiolone. E vanno in maggiolone. grande Maggiolone. I heard she had a style, and so I came to see her, to listen for a while. And there she was. Frank Chappell, bravo, e bravo. Che c'entra oggi? Killing me softly. Insomma, ammazzare dolcemente. Chi lo sa, vedremo, non lo e so. Chi è che ammazza dolcemente? Ma sai, la politica è questa cosa qua. Avete visto la direzione del PD? Allora, sì, per me è andata così. Renzi è stato molto efficace nel suo intervento in direzione, lo è sempre quando è in quei momenti di sottopressione. Per me ci sono due Renzi, uno è il segretario del partito, l'altro è il capo del governo. Questo ormai è chiaro. Non riunibili, tra l'altro. Il primo ha fatto una rivoluzione anche di tipo culturale nel PD, o comunque la sta facendo. Il secondo, secondo me, deve ancora dimostrare di saper governare, soprattutto dal punto di vista della delega del governo. E ci sono evidenti difficoltà per il 2016, molto duro dal punto di vista economico e non solo, perché ha anche un po' di problemi giudiziari, mi pare, da soprattutto il rapporto con la magistratura da tenere presente. Però a me interessa soprattutto, e soprattutto ai nostri ascoltatori, capire che cosa ne pensi tu, Giovanni, e che cosa ne pensa Pietrangelo. Io penso che la direzione del PD è stata per la prima volta, o comunque una delle prime volte, una direzione vera, dove gli argomenti si sono contrapposti con la durezza necessaria della politica, con la forza e la chiarezza anche. E Renzi, che è un grande combattente, trova nel momento della lotta il meglio di sé. Però concordo sul fatto che è un Renzi per ora più capo che leader. Sì, un po' sì. Vedremo un po'. Tu, Pietrangelo? La realtà prende il sopravvento sulla narrazione e, come dici tu, Giovanni, è più capo che leader e, come gli è stato ricordato ieri, del capo lui ha l'arroganza e non la statura. Non la statura del leader, insomma. E quindi Salamino! Insomma, marinai, donne, guai, si diceva una volta, e sono navi e guai. Nello stop al contratto da 5 miliardi tra Italia e Qatar c'è lo zampino di Parigi. E piangendo in questi giorni mesti e grigi, io rivivo quel bel sogno di Parigi. Fra bistrò, Pierrot, Pernod, Peugeot, Renault, Delon e cieli bigi, ripensando a quando lei apparì. È troppo strana la coincidenza dei guai giudiziari dell'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, capo della Marina Militare dal 2012, troppo strana, perché interessante è lo scenario proposto oggi da Fabrizio Ravoni sul Giornale. La vicenda del pontile di Augusta, ricordiamolo, è quella che azzoppa l'ammiraglio e con lui la legge navale, cioè la norma che avrebbe dovuto finanziare con 5 miliardi di euro la realizzazione dei nuovi pattigliatori d'altura. E dunque ancora una volta andar pel vasto mar, ridendo in faccia monna morte dal destino. Insomma, sembra ancora la maledizione di Trizzino, navi e poltrone. E insomma, c'è un preciso fatto, bisogna ricordarlo. Mercoledì scorso, dopo una cerimonia all'aeronautica militare, Roberta Pinotti, ministro della difesa, parte per il Qatar. Deve firmare il contratto per la fornitura di fregate. Con lei c'è Mauro Moretti, che è l'amministratore di Finmeccanica. Arrivano, ma non firmano. I catarioti dicono no, però lo dicono non con il no in arabo, lo dicono stranamente in francese. Strano. A Doha c'è anche De Giorgi e quando al rientro l'ammiraglio si ritrova sui giornali, i francesi hanno già mano libera in tutti gli affari del Golfo. Povero ammiraglio, lui

Mario, ancora ci chiedono il nome del titolo del libro, poi ripetono ancora una volta. Lo ripetiamo per tutti quelli che lo chiedono. Allora, l'autore è George Steiner, la citazione è tratta Nel castello di Barba Blu, l'editore è Garzanti. Consiglio anche un altro libro, è un suo ciclo di conferenze molto bello, che si chiama Una certa idea d'Europa. Poi ce ne sarebbero altri, ma va bene così. Canzoniere. Tu ti arrovelli talora come un indemoniato. Tu aggrovigli talaltra in guisa un affare che lo stesso Satana non vi si raccapezzerebbe. Tu metti al titolo una minuscola e non metti poi data o numero d'ordine. Maledetto allocco. Certo, è geloso che io sieda nel gabinetto del direttore che temperi le matite per sua eccellenza. A farla breve, io non andrei al ministero se non avessi la speranza di fare una visitina al cassiere e vedere se vi sia mezzo di chiedere a quell'ebreo una piccola anticipazione, sia pur misera, sul mio stipendio. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Il Nanga Parbat è veramente un gigante, è un camion, gli altri 8000 sono una macchina. E il Nanga Parbat mi ha dato una consapevolezza. Ho capito che se scali il Nanga Parbat, scali tutti gli altri 8000. Ma secondo me questa salita è come vincere l'Olimpiade. Questa salita è come vincere un'Olimpiade. Così Simone Moro, dopo una vittoria che lui stesso definisce assurda. La prima ascensione invernale al Nanga Parbat, la montagna mangia uomini. 28 febbraio 2016, con l'atleta bergamasco hanno raggiunto la vetta un pakistano, uno spagnolo, mentre la generosa alpinista altoatesina Tamara Lunger, per non ostacolare i compagni di cordata, si è fermata a 70 metri dalla cima. Nanga Parbat, 8125 metri, la nona montagna più alta del mondo, la più affascinante, la più pericolosa. È il suo il primato più tragico, il numero delle vittime. Nanga Parbat, 30 anni di sfide, di disastri, di successi, di segreti. Qui a Mix 24, il giallo della storia dopo il giornale radio. Mario, sei ancora una bolla. Una bolletta su quattro ruote. I left my heart in San Francisco. Ragazzi, Tony Bennett. Oggi abbiamo fatto Frank Sinatra e Tony Bennett. Sentite che cosa che è. Dire? Senti. It calls to me to be. E vuol dire che ci prepariamo una bella serata, forse. Dai, allora, San Francisco, perché vedrete, c'entra. Il capo di Peugeot, Carlos Tavares, ha detto in un'intervista stamattina che o ci muoviamo o siamo morti. Ora, lui si riferisce non solo a Peugeot Citroën, che è un grande gruppo automobilistico, ma a tutto il settore. Pensa che il gruppo torna negli Stati Uniti e mancava dal mercato americano da più di 20 anni. Peugeot lo lasciò nel 74, Citroën nel 91. Perché lui dice siamo tutti morti? Beh, perché in fondo hanno ripreso a vendere, il petrolio è basso, classi nuove nei paesi emergenti acquistano l'auto, però c'è un problema. Ci sono nuovi costruttori e nuove sfide. Certo, l'auto che elettrica fanno macchine diverse. E fanno macchine diverse. Tesla ha lanciato online un prodotto, un modello che sarà commercializzato solo nel 2017. Ha fatto le prevendite, si chiama Model 3. Bene, sapete quante hanno dovuto versare $1000 per prenotarla tutti? 276.000 prenotazioni dell'auto. Accidenti. Tesla sta al mercato automobilistico come Apple sta al mercato dell'high-tech. Nuova rivoluzione anche nelle automobili. Elisabetta da Milano per il canzoniere, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dica. Allora, Google. Oh. Memoria di un pazzo. Giusto, giusto. Che cosa fa di bello, signora? Dunque, prima di tutto devo confessarle che ho fatto slavistica all'università. Ha fatto slavistica? Con una, sì, slavistica. Con una tesi su Dostoevskij. Vabbè, buttafuoco innamorato, non dico altro. Io pure sarei molto interessato. E nella vita? Lavoro nella che... vita disegno, faccio la designer e faccio la designer del sacro. Sempre più interessante. Fantastico. Bene, auguri signora. Gloria Guerrera, per finire, che cosa ci dedica? Oggi una canzone per chi sogna una fuga estrema, un ritiro talmente lontano da vedere la terra girare. Mina, una casa in cima al mondo. Amore, non piangere mai più.